alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Seconda puntata. Passarono ancora 8 giorni e poi 10. L'autunno era già in agonia. Di notte le siepi brinavano e la luna s'era fatta più fredda del sasso. E così ferma, rotonda e precisa come può essere solo a Natale. Le due nubi che l'erano d'attorno parevano aria appannata. Alle 6 scendevate in strada e non sentivate altro che odor di polenta e castagne bollite nell'acqua. I campanacci di bronzo arrivavano allora lì al borgo da 1 miglio, 2 miglia e anche più. Ma la vecchia non si fece vedere. Prima o poi vengono tutti da me, mi dicevo. Tanto più che l'inverno è alle porte. Finiscono col venir tutti. Io lo so, prima o poi. Dovrà uscire dalla tana anche lei. E invece no. Passò anche l'autunno. Le siepi adesso erano solo grovigli di spini. Gli uomini stavano già per finire le trappole da portare su a monte nei boschi e la vecchia non uscì dalla tana. Feci quello che non avevo mai fatto. Mi decisi a informarmi di lei. Regalai 2 pelli di coniglio a un ragazzo che su per giù mi faceva da chierico e lo feci andare dal bosco ai calanchi. Il ragazzo se ne andò in giro 2 giorni qua e là, perché in realtà era un bravo ragazzo pieno di idee ed espedienti e per quassù anche quasi educato. Salì alle torbe e ai calanchi e ai pascoli e non riuscì a trovar più di tanto. Gliene diedi 1/3 e lui si spinse ai confini di Bobbio e quel che c'era da sapere lo seppi. Viveva sola, al di là del sentiero degli olmi, proprio ai margini della parrocchia. E dopo non ci sono che forre, torbiere e anche peggio, seppur peggio è possibile. Era venuta a stare da poco e senza dir niente a nessuno, venendo su dalle parti di Bobbio, dove 4 anni prima i tedeschi avevano bruciato anche i sassi. Si chiamava Zelinda Icci fu primo. Aveva compiuto i 63 l'8 agosto e adesso lavava a stracci e budella dalla mattina alla sera laggiù dal canale per qualcuno o qualcosa di un paese di valle dove c'era già qualche industria. Ogni sera, al cader delle ombre, se ne veniva su per la strada di monte coi suoi stracci e la sua carriola e la capra, vinta pare a una lotteria di parrocchia. Lungo le siepi si chinava a ogni passo a prender su sterpi secchi o anche carta, e davanti al tabernacolo Jesus si segnava e abbassava la testa. Mai una volta alla processione, mai ai vespri, mai in chiesa. Quel che venni a sapere fu questo. Alla sera del 9 stavo a insegnare la commedia ai ragazzi. S'aprì l'uscio e la Melide entrò con 3 o 4 formaggi di capra. Era appena tornata dall'aver cucito il lenzuolo ad un vecchio. S'avvicinava la loro brutta stagione. Quando l'agonia cominciava, la mandavano subito a prendere. Lei vegliava 1 notte, 2 e 3, lo lavava e cuciva il lenzuolo e ogni volta tornando aveva sempre per le mani qualcosa. Una vecchia ha bisogno di voi, è nello studio. Lo so. Dissi, lo so, ed invece era tutta una storia. Le ho detto io di passare di qua. E adesso grazie e buonanotte e bei sogni, voglio fare l'allegro e tutti in gamba fino a domani mattina. Ma il fatto è, brava gente, che per questa sera non ho proprio bisogno di voi. Così tutti se ne andarono via e io restai solo in parrocchia. Il corridoio era più buio di un forno e a guardare la striscia di luce che usciva dalla fessura dell'uscio mi sentii come uno che è in debito. Il creditore è di là ad aspettarlo e lui intanto non sa come fare perché il suo lo ha già speso da un pezzo e tutto quel che ha è un po' di rame e in una mano ci sta. Non m'era mai capitato da secoli. E la cosa mi fece pensare. Sentii i ragazzi salutarsi in strada. Un sasso rotolò per la piazza. Una porta e poi un'altra si chiusero. Quello che stava alle torbe continuò la sua strada fischiando. Ed ecco qui la mia vecchia, pensai. Dopo un poco aprii l'uscio. Era là. Era la prima volta che potevo vederla a due passi e io mi misi a osservarla ben bene. Aveva pelle scura e rugosa e capelli color grigio passera e vene dure e sporgenti come neanche un uomo le ha. E se una pianta può in qualche modo servire a dar l'idea di un cristiano, bene, un vecchio ulivo di fosso è quel che ci vuole per lei. A vederla così, mi pareva che ormai né stanchezza né noia potessero più qualche cosa su lei. Si lasciava vivere. E basta. Ecco tutto. Le indicai con una mano la sedia. Ma lei sorrise in maniera selvatica e abbassò un po' la testa e si avvicinò allo scrittoio. Ecco, cominciò un po' indecisa. Intanto, lei non mi conosce neanche. Beh, l'interruppi io sorridendo. Da un po' di tempo per noi preti non spira troppo buon'aria, lo so. Ma a questo punto non siamo ancora arrivati, mi pare. E lo dissi in tono da farle capire che tutto quel che di un uomo un altro uomo può venire a sapere, nome, strada, mestiere e altro ancora, io ero venuto a saperlo da un pezzo. Tutto il resto lo aspettavo proprio da lei. Dicevo, precisò ad occhi obliqui, che io non mi sono mai fatta vedere qui prima d'oggi. Beh, l'inverno è all'uscio e c'è un mucchio di cose da fare e per voi peggio ancora, suppongo. Chi vi dice di venire in parrocchia? L'importante è non perdere il numero. Può sempre venir buono. Ecco tutto. E io non l'ho perso, disse lei dopo un po' sorridendo, come se usare le mie stesse parole fosse bere al mio stesso bicchiere. Ebbene, che avete fatto? Altro che, voglio sperare che vi possa venir buono sul serio. Ma neanche adesso si decise a parlare. E allora, per farle svuotare tutto il sacco, pensai che non c'era altro mezzo che fare come se lei nemmeno ci fosse. Lì sullo scrittoio c'era un lunario di 5 o 6 anni passati e io lo presi e mi misi a sfogliarlo e a guardare come fosse granché. Ecco qui, mi dicevo. La vecchia non ha ancora parlato e può darsi che si faccia ancora pregare e pregare e dica ancora di no per un anno. E più tarda a parlare, più è segno che la cosa è importante. Più è segno che la cosa è importante, lo so, fino a qui riesco ancora ad arrivarci. Ma ho gran paura, sul serio, di non poter servir più per un caso del genere. Tutto questo è un'altra lingua per me. Sagre, oli sante, un matrimonio alla buona. Ecco il mio pane oramai. E pensai a quel che invece ero a 20 anni, quando leggevo di tutto e nel seminario per giunta mi chiamavano il Doctor Ironicus. Ecco, aprì finalmente la bocca. Io volevo domandare nient'altro che questo. Io guardavo il lunario e tacevo. Per un poco ritacque anche lei. È vero o no che anche voi... Sì, la Chiesa ammette che due che si sono sposati possono anche dividersi e uno è libero poi di sposare chi vuole? Un uomo può arrabbiarsi anche per meno di questo, per molto meno, io lo so, e lo stesso un povero prete. Misi il lunario da parte e la guardai in mezzo agli occhi. E la mia faccia non dovette certo garbarle granché, perché lei prese subito a guardarsi di striscio le scarpe e a tirarsi e a lisciarsi il grembiule e far cose perfino più sciocche. E intanto si ritirò come in se stessa, né più né meno che un riccio se qualcuno lo tocca. Per giorni e giorni non avevo pensato ad altro che a lei. Ero andato ogni sera al canale e ci avevo fatto anche su grandi segni. E adesso, ecco qua, tutto quel che ne usciva era una storia da far ridere le stalle per tutto quanto l'inverno. Beh, mi pare che vi siate messa per strada un po' tardi, volli fare l'ironico. Non è questo, disse lei dolcemente. Volevo solo sapere se la Chiesa lo ammette. Sono venuta per questo da voi. Per esempio, ma vogliamo scherzare? La Chiesa non lo ammette per niente. La interruppi, anche un po' risentito. E se volete saperlo, non potrebbe far niente di meglio. Lo so, io lo so bene. La Chiesa dice sempre così, tutti i preti lo dicono, anche quello di Bobbio. Si capisce, come no? Oh, ma è giusto che facciano così, si capisce. Dovete fare così. È nient'altro che il vostro dovere. Io vi capisco benissimo, voi. Dobbiamo? Che cosa dobbiamo? Ma è così, questo è il fatto. È la Chiesa che lo vuole, capite? E con tutte le ragioni del mondo, e da 1000 anni a dir poco. E neanche un vescovo può cambiarla di un dito. Figuratevi un prete. Mi guardò come si guarda un bambino. Lo so, ripeté lei con dolcezza. Queste cose... le so come un'altra. Oltretutto sono stata una figlia di Maria tempo fa. Non è questo. Io voglio dire che mi hanno detto che delle volte ci sono casi particolari, diversi, e che allora si può. Voi non parlate mai di questi casi alla predica. E io vi capisco, come no? Vi capisco benissimo. E invece poi i casi ci sono. A me hanno detto così. Roba da strapparsi i capelli. Beh, sì, casi speciali ci sono, dovetti arrendermi io. Casi specialissimi, ecco. Ma così pochi, vedete? Mi rivalsi di colpo. Che è come nemmeno ci fossero. Uno su 20.000, su 100.000 a essere larghi, e magari anche meno. E quando vi sembra di trovarvi davanti al caso più strano del mondo? Bene, pensate che non è ancora strano abbastanza, che ci manca ancora qualcosa e non sbaglierete per niente. Ed è un'ottima regola questa. Ma ci sono, insiste lei, sempre dolce e implacabile. Voi non ne parlate mai nelle prediche. E poi i casi ci sono lo stesso. Sì, sì, ve l'ho detto, Zelinda Icci, l'ho detto, specialissimi casi, come però neanche ci fossero. E così la regola non serve più. Per questi specialissimi casi, no, va da sé. Di modo che, disse lei come a se stessa, così non c'è nemmeno peccato. Di modo che non c'è nemmeno peccato, ripetei. Ed allora successe qualcosa. La mia vecchia si guardò un poco intorno e poi diede un'occhiata anche all'uscio e per un po' stette lì ad ascoltare. Sì, qualcosa doveva accadere. Qualcosa era già per l'aria, vi dico. E di colpo, senza sapere perché, mi fu più chiaro del sole che tutte quelle sue sciocche domande sul matrimonio e la regola e sui casi speciali e via ancora non erano più che un pretesto. E se io le avevo prese sul serio e mi ci ero per giunta arrabbiato, bene, tanto peggio per me. A ciascuno il suo e così sia. Ecco un prete in pensione, oramai. Vedete, cominciò infatti lei, adesso ci sarebbe anche una cosa, se vogliamo, quella di prima era un po' una malizia. Io volevo... In quel momento, di là sulla strada, si sentì un rumore di campanacci di bronzo e un fruscio come d'erba medica e d'acqua che prendeva tutta quanta la via e un'infinità di peste leggere e bellacce. Ombre bianche e ombre nere scorrevan via dietro il vetro. Gli spinoni abbaiavano forte. Così lei si interruppe nel mezzo e porse orecchio al rumore e nemmeno accennava a riprendere. Dicevamo, Zelinda, tentai io con ben poca speranza. No, un'altra volta, s'affrettò, come a chiedere scusa. Adesso è ormai troppo tardi. Sono tornati perfino i pastori e a momenti è già notte. Un'altra volta, semmai. Verrò un'altra volta da voi, di sicuro. Per quella sera capii che non c'era proprio più niente da fare e tutto quel che potevo era alzarmi con lei e accompagnarla giù fino al sagrato. Adesso era uscita la luna, ma c'era così freddo all'intorno che pareva rabbrividire anche lei. L'aria intorno era blu, e blu i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le macchie dei boschi. Ero triste, come un ragazzo, parola. E lasciarla andare così era più di quel che potessi permettermi. «Ehi là, Zelinda!» gridai. «Ascoltate un momento. Fermatevi!» «Zelinda!» cominciai quando le fui a neanche un passo. Voglio essere franco con voi. Voi ve ne state tutto il giorno lì in fondo al canale a lavar biancheria e stracci vecchi. Non conoscete nessuno, non vi fermate mai con nessuno e da vespro via subito a casa. E questa sera, così tutta un tratto, vi prendete la briga di venir su da me a far 2 chilometri buoni sopra più degli 8 che fate ogni giorno e poi mi chiedete quel che mi avete chiesto. Ecco tutto. Bene, ho fatto da maniscalco, da dottore e da tutto, e non c'è cosa, purtroppo, che mi possa più far meraviglia. Ma questo mi è parso strano, piuttosto. Una cosa curiosa, sul serio. Neanche adesso lei disse parola. Siete ben sicura, Zelinda, di non aver proprio altro da dirmi? La vecchia parve un poco indugiare. Siete proprio sicura? Provai ancora ad insistere, di avermi chiesto davvero ogni cosa. Sì, sì, rispose lei un po' a fatica. Buonanotte. Buonanotte, dissi io. Mi appoggiai con un braccio contro il melo che sta sul sagrato e con gli occhi la seguii per un po'. Andava via lentamente e anche un poco a fatica, direi, sicché prima che sparisse alla svolta dovette passare del tempo. Alla curva scomparve subito lei e poi, dopo un po', la sua ombra. Ma il rumore dei tacchi mi arrivò ancora per qualche minuto. Quando non sentii proprio più niente, tornai dentro in parrocchia. Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.